Nuova settimana, nuovo mese, oggi lunedì 1 di ottobre, ma immancabile l'appuntamento serale dalle 20 alle 21 su Rock FM con la voce di Marco Gravelli, con lo spazio dedicato all'hard rock e al metal, ovvero sia Hard and Heavy. Il benvenuto quindi da Marco Gravelli, il ben ritrovati insieme su Rock FM con Hard and Heavy, con il nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano, nonché Simone che anche per questa sera si è dato da fare in questo weekend per preparare tutta la tracklist e le notizie, notizie che ci permettono di approfondire la storia di questa formazione americana chiamata Striper, una delle prime Christian hard rock band composta da quattro elementi, identificata da due colori, il giallo e il nero, che grande notorietà ha avuto proprio nella metà degli anni 80 in America. In effetti tutti i loro costumi live, costumi non maschere, intendetemi bene, proprio i vestiti, erano caratterizzati dai colori giallo e nero. Il gruppo nasce nel 1981 quando i due fratelli Sweet, dei quali spicca il bravo cantante Michael, formano i Rox Regime e con questo moniker suonano dal vivo e cominciano a comporre le prime canzoni. Importante e fondamentale per loro è l'annata 1983, quando cambiano il nome nell'attuale Striper, decidono di diffondere la religione cristiana attraverso la loro musica, tanto che alla fine dei loro concerti, e questa è abbastanza nota, non è un aneddoto ma è proprio una verità, un aneddoto vero perlomeno, consolidato, il fatto che loro erano soliti consegnare copie della Bibbia alla gente. La carriera musicale comincia dopo aver ottenuto un contratto con la Enigma Records, che ne pubblicherà i lavori sino al 1990 e che pubblica il loro primo album 1984, intitolato appunto The Yellow and Black Attack. Subito diventano la band di punta dell'etichetta. Nel 1985, con il secondo lavoro Soldiers Under Command, arriva anche il grande successo commerciale, dovuto anche in parte alla produzione, all'ottima produzione di Michael Wagner. Lentamente però l'interesse per gli Striper scende sino al 1990, quando il leader Michael Sweet abbandona il gruppo per dedicarsi alla carriera solista. Recente è stata la loro reunion, con la sola eccezione del bassista. Ultima uscita in studio è stata lo scorso anno con Reborn, pubblicato dall'etichetta europea NTM Music, che ha addirittura 15 anni dalla precedente Against the Law. L'album che oggi prendiamo in considerazione è il terzo, arrivò al numero 32 nelle charts di Billboard in America, si intitolava To Hell with the Devil e andiamo a proporre la canzone che chiudeva la side A, cioè The Way, Striper. The Way, questo è il titolo del brano per gli Striper da To Hell with the Devil. Con loro abbiamo aperto il nostro appuntamento di questa sera di Hard and Heavy. Non vi sto a raccontare la storia, anche perché per sommi capi l'abbiamo proposta venerdì scorso, quando abbiamo dedicato parte della serata del venerdì con la musica live al loro stupendo doppio primo vinile live. Sto parlando degli Iron Maiden. Oggi prendiamo in considerazione il loro secondo album, cioè il lavoro Killers, uscito nel 1981, che vedeva l'ingresso come chitarrista di Adrian Smith, oltre Paul Di'Anno alla voce, Steve Harris al basso, Dan Murray seconda chitarra, Cliff Bar alla batteria. L'album arrivò al numero 12 in Inghilterra, 11 in Svezia, 19 in Norvegia, 20 in Austria. Il gruppo è quello degli Iron Maiden, questo è proprio Killer. mega classico con il grande Paul Diano, qui alla voce era Killers, Iron Maiden su Rock FM nello spazio di Arden Daddy. Dal passato a qualcosa di più recente, uscito nel mese di giugno questo nuovo album in studio per gli Iron Savior, band di Amburgo fondata da Pete Silk nel 96, esordio avvenuto l'anno seguente. In occasione dei 10 anni dall'esordio è arrivato questo sesto album dal titolo Megatropolis, che si compone di ottime 9 canzoni registrate al Powerhouse Studios di Amburgo. Confermata la lineup del precedente album, Battering Ram, con alla batteria Thomas Neck, ex Gamma Ray, disponibile anche in limited edition con una bonus track. Da questo lavoro, intitolato appunto Megatropolis, vi propongo The Omega Man, Iron Savior. nuovo ottimo prodotto degli Aaron Sevier, uscito nel mese di giugno, Megatropolis, il titolo, The Omega Man, il brano che vi ho proposto. Ritorniamo invece ad una band magari non molto nota, visto che hanno inciso soltanto due album, arrivano dall'Inghilterra, proponevano un hard rock a tratti melodico, però buoni personaggi erano inseriti all'interno di questo gruppo chiamato Wild Horses, creato dal chitarrista e qui anche cantante Richard Robertson, ex componente dei Thin Lizzy, insieme al bassista Jimmy Bain, ex Rainbow. A lineup ultimata arrivano all'esordio con il primo lavoro che si intitola proprio The First Album e dopo un anno pubblicano il secondo Stand Your Ground. Dopo la pubblicazione del lavoro seguono dei cambi di lineup con sostituzione di Robertson e quindi con l'ingresso di un nuovo cantante, nuovo chitarrista, e per il batterista fu scelto l'ex batterista dei Def Leppard, Richard Nunn. Nel frattempo però perdono il contratto con l'etichetta, con la major EMI, e la band è anche costretta ad interrompere il tour fino al completo scioglimento. Dal loro primo vinile vado a proporvi il brano che apre l'album, motivo dal titolo Revelation. L'album fu prodotto da Trevor Rabin degli Yes ed è anche disponibile, se proprio volete cercare, grazie ad una ristampa in CD. Dal mio vinile invece andiamo proprio ad ascoltare loro direttamente, quindi frucerà un po' questo The First Album per i Wild Horses. Fire, water, Dal loro primo album, intitolato appunto The First Album, vi ho detto il titolo Revelation, invece mi scuso, è Reservation, il titolo di questo brano che apriva il lavoro dei Wild Horses, due vinili stampati e poi la band si è sciolta. Gruppo che invece, definiamolo ancora in attività, è quello dei tedeschi, una delle più importanti band di speed thrash metal tedesco, composto da tre elementi, trio, quindi Destruction, nati nel 1983 col nome di Night of Demon, cambiato poi in quello di Destruction in occasione della pubblicazione avvenuta nell'84 del loro primo EP intitolato Sentence of Death, che oggi prendiamo in esame. Il leader del gruppo è il cantante bassista Schmier, che ha recentemente preso parte anche al primo CD celebrativo dell'etichetta Nuclear Blast. Poi si aggiunge lo storico chitarrista Mike, che ancora oggi milita nella band. Il gruppo nel panorama thrash metal tedesco è pari a quello, a livello di notorietà e fama, è pari a quello dei Creator e Sodom. Grazie ad un contratto con la tedesca SPV pubblica appunto nell'84 il loro primo EP. Nell'85 arrivano degli album più importanti, il loro primo Infernal Overkill. La notorietà cresce grazie anche ai lavori successivi, suoneranno di spalla nell'87 in Motorhead e soprattutto agli Slayer in un tour americano. Nell'88 c'è da segnalare un altro grande lavoro, Release from Agony, che vedeva la produzione Kalle Trapp, all'epoca uno dei personaggi di spicco, diciamo, del panorama metal. Nel 1989 però Schmier lascia la band e da lì seguì un periodo buio, sino a quando, 10 anni dopo, lo stesso Schmier rientra nella band. Il gruppo è ancora oggi in attività, l'ultima uscita è stata in gennaio con una raccolta dal titolo Thrash Anthems, che raccoglie 14 tracce tratte dai primi lavori, per l'occasione sono risuonate e in alcuni casi riarrangiate, più due nuovi motivi. Vi dicevo appunto del loro primissimo EP, che però, beh, per essere un EP comprendeva diverse tracce. A parte un intro, vi erano ben 5 brani, con Schmier basso e voce, Mike chitarra e Tommy alla batteria. Uscita per l'etichetta tedesca Steamhammer SPV, e andiamo ad ascoltare quello che rimane uno dei classici della formazione, cioè il motivo dal titolo Mad Butcher. Abbiamo ritrovato in apertura della seconda parte di Hard & Heavy il sound di questa formazione che si chiama Rob Rock. A 2 anni dal precedente Holy Hell è uscito 10 giorni fa questo quarto album solista dal titolo Garden of Chaos per il cantante americano appunto chiamato Rob Rock, da non confondere col produttore. Artista che ha mosso i primi passi nel 1983, ha lavorato anche con Chris Impellitteri, ex Rudy Pell, i Driver, per arrivare nel 2000 alla carriera solista con l'album Rage of Creation. Diversi sono stati gli artisti che hanno suonato nei suoi lavori solisti e per questo album c'è da segnalare alla chitarra lo svedese Green Mark dei Narnia e Severe Machine, al basso Andreas Olsson, anche lui nei Divine Fire, alla batteria Andreas Johansson degli Hammerfall ed ex Malmsteen. Inoltre suonano in alcuni brani, il tastierista italiano Mysteria, i chitarristi Gus Gide e Far Wind, Roy Zed che ha coprodotto il lavoro. Infine il batterista è Bobby Yarzombek degli Elford ed ex Ice the Earth. Le tracce sono ben 10, mixate dall'esperto Jacob Hansen, e vi ho proposto Garden of Chaos, il motivo che dà il titolo all'album. La prossima band invece si chiama Poverty's No Crime, è uscito anche in questo caso la scorsa settimana, l'album è il sesto, dal titolo Save My Soul. Questa band propone del prog metal, arriva dalla Germania, è composta da 5 elementi, nati nel 91, dopo 2 demo partecipano e vincono un concorso chiamato Newcomer Rock Festival, indetto da una radio nazionale. L'esordio arriva nel 95 con l'album Symbiosis, mentre grazie al secondo lavoro che ottengono date di supporto a Virgin Steel ed Angra. Nel corso degli anni ci sono stati diversi cambi di formazione ed alcune difficoltà, ma nonostante tutto, a 4 anni dal precedente lavoro è uscito questo Save My Soul, 9 brani più un intro, ben prodotti ad opera della stessa band. Il pezzo si intitola Open Your Eyes, Poverty's No Crime. Metal News di questa sera, preparate come sempre da Simone, ci permettono di partire con dettagli del nuovo album di Gamma Ray. Si sapeva già il titolo, Land of the Free Parte 2, concept che prosegue il lavoro del loro famoso album del 95, Land of the Free. L'etichetta è la stessa dei connazionali Helloween, cioè la Steamhammer SPV, con la quale hanno stipulato un contratto proprio la scorsa settimana. L'album presenterà 11 brani più un intro, uno dei motivi durerà qualcosa come 11 minuti, data d'uscita 19 di novembre. Il prossimo album invece della gothic metal band milanese dei Macbeth si intitolerà Super Angelic Hatebringers, 10 brani più il video del singolo Without You. Registrazione avvenuta in Islanda e in Italia presso gli ormai noti New Scene Studios e in quest'ultimo sono anche avvenuti il mixaggio e la masterizzazione. Data d'uscita prevista 16 novembre, etichetta Dragon Art Records. Visto che siamo in tema di band italiane, parliamo dell'Italian Gods of Metal del 2008 che si terrà domenica 2 marzo all'Alcatraz di Milano con DFSS, Fire Trails, Strana Officina, Sadist, Estrema, Domine, Vision Divine, Grey Worm, Necrodef, Labyrinth, Macbeth, DGM, Raw Vision. Se acquistate il biglietto entro il 31 gennaio costa 10 euro, altrimenti successivamente costa 15. Ricordo che la data è il 2 marzo del 2008. Altro concerto in arrivo, due date per la precisione, il 12 dicembre al New Age di Roncade Treviso, il 13 al Rainbow di Milano. Queste le due date per il gruppo di Blackie Lowell's, gli Wasp, che arrivano con questo doppio concerto con una sorpresa. Infatti Blackie e i soci suoneranno per intero l'album The Crimson Idol, oltre ai grandi successi della band. Tigers of Pentang hanno completato la registrazione di alcune tracce che andranno a comporre il loro prossimo album, la cui data di pubblicazione è tra febbraio e marzo del prossimo album. Ancora non è stato scelto il titolo definitivo, in ogni modo a novembre uscirà un EP dal titolo Back and Behind. Parliamo invece del ritorno della formazione olandese degli Elegy con un nuovo album previsto per il 2008. Inoltre il cantante Ian Perry sta lavorando ad un album di classici del rock e per la composizione dei brani ha partecipato il tastierista dei Royal Ant, Andre Anderson. Nel frattempo è uscito il quarto album del progetto di Ian Perry con il nome di Consortium Project, progetto che ha avuto il suo esordio nel 99 con l'omonimo album e che vedeva la presenza di diversi special guest, al quale è seguito Continuum in Extremis, e a 4 anni dal terzo capitolo è uscito questo nuovo Children of Tomorrow 4, che si compone di 11 brani, e noi andiamo ad ascoltare la traccia numero 5 che si intitola Exodus. Change. If no action is taken, dal progetto musicale di Ian Perry, Consortium Project numero 4, questo è Children of Tomorrow, perlomeno questo è appunto il titolo del loro quarto capitolo, dal quale abbiamo ascoltato le note di Exodus. Primal Fear in arrivo, beh, l'album è già fuori, ma arriveranno anche loro dal vivo, suoneranno in effetti settimana prossima insieme a Udo in occasione della recente pubblicazione del settimo album in studio dal titolo New Religion. Il gruppo tedesco capitanato dal bravo cantante Ralph Schippers. 15 ottobre Alcatraz di Milano, 16 ottobre Alpheus di Roma. Album che abbiamo già presentato nelle scorse settimane. Per quanto riguarda il cantante, ha militato in passato nei Tyrant Pace, che vi ho proposto un paio di volte, nei Gamma Ray, e per un breve periodo solo per alcune date dal vivo negli Halloween. Inoltre è apparso come special guest in molte band, tra cui Therion, Pink Green 69, Aerion e Scanner. Andiamo ad ascoltare il pezzo d'apertura del nuovo album dei Primal Fear. L'album è New Religion, questa è Sign of Fear. Fear, ricorda Rob Halford in alcuni passaggi, non c'è niente da fare. Ralph, il cantante dei Primal Fear, dal loro nuovo album intitolato New Religion. Lo scorso weekend è uscito questo Dark Passion Play, è già numero uno direttamente in Finlandia ed è il nuovo lavoro dei Nightwish. Noi l'abbiamo presentato proprio venerdì in un'intervista insieme al tastierista Tuomas, leader della band, con la nuova cantante svedese Annette, che ha preso il posto di Tarja. Ricordiamo appunto che la band è nata nel luglio del 96 da un'idea appunto di Tuomas. Il primo nucleo era formato anche dal chitarrista Empu, oltre che dalla voce femminile di Tarja. Nel 97 il primo album, Angels Fall First, che riscuote un buon successo in Finlandia. 99 il secondo, Ocean Burn, che li fa conoscere nel resto dell'Europa. Poi nel 2000 arriva l'album Wishmaster ed ancora una pioggia di premi e tour in Europa. Nel 2002 arriva Century Child, che vede la presenza di un'orchestra, soprattutto l'ingresso del bassista cantante Marco Jietala dei Tarot, nei quali tuttora milita. Questo sarà il passo fondamentale per arrivare all'album pluripremiato Once, album più pesante e più sinfonico, grazie anche all'ausilio di un'imponente orchestra composta da ben 52 elementi, 18 coristi, che ha raggiunto il primo posto in diverse nazioni europee. Il nuovo lavoro si intitola Dark Passion Play. Ci sono 13 brani, la prima, pensate, dura qualcosa come 14 minuti. Io vado a proporvi il brano dal titolo Whoever Brings the Night, la mia copia, che è arrivata il mese scorso, è quella con i voice over, quindi ci saranno degli annunci sovrapposti, diciamo appositamente fatta per non poterla scaricare, per non effettuare il download via internet. Nightwish con Whoever Brings the Night. Whoever brings the night. Le note di questo estratto da Dark Passion Play, appunto Whoever Brings the Night, con la nuova vocalista Annette, i Nightwish in questione, ci permettono di arrivare al termine del nostro appuntamento, il primo di questa settimana. Vi ringrazio come sempre, saluto voi che mi avete seguito sino a questo punto, Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, e Simone, ringrazio il nostro autore di tutti i testi e delle scalette. Ci ritroveremo domani sera, puntuali, qua su Rock FM, con un altro appuntamento di Hard & Heavy, dalle ore 20 alle ore 21. Grazie a tutti.